Lo zio Tom aveva preso la bimba sulle ginocchia e lasciava che si scapricciasse a suo bell'agio nel graffiargli il viso, nel tirargli i capelli e di quando in quando a dar balzi e risolini come segno di qualche suo strano pensiero. Sì, godi e salta, tapinella, disse la zia Clo. Anche per te verrà tempo di piangere. Tu vivrai per vedere tuo marito venduto o per essere venduta tu stessa. E anche questi fanciulli me li prenderanno, suppongo, appena saranno buoni a qualche servigio. Che giova a noi, poveri neri, l'aver cosa alcuna. In quel momento uno dei ragazzi gridò: Ecco che viene la padrona. Ella non ci può fare alcun bene, disse la zia Clo. Perché viene qua? La signora Shelby entrò. La zia Clo, con maniere aspre e zotiche, fece avanzare una sedia, ma la signora non mostrò di accorgersene. Era pallida e le si leggeva negli occhi l'ansietà. Tom, disse ella. Io vengo a. Tacque a un tratto e lasciandosi cadere sulla seggiola si coperse il viso col fazzoletto e ruppe in singhiozzi. Dio buono, non piangete, signora, non piangete! Esclamò la zia Clo. E così dicendo dava anch'ella in un gran pianto e tutti per alcuni momenti piansero insieme. Quelle lacrime sparse in comune dall'alto e dall'umile addolcivano e mitigavano il cuore triste e lacerato dell'oppresso. Oh, voi che visitate i sofferenti, non sapete che quanto il denaro vostro può comperare, dato con indifferente e freddo viso, non vale una sincera lacrima di simpatia? Mio buon amico, disse la padrona, io nulla adesso posso darti che ti sia giovevole. Se ti dessi del denaro te lo prenderebbero, ma ti dico solamente, e ne prendo Iddio a testimone, che seguirò le tue tracce e ti riscatterò appena io possa avere a mia disposizione la somma necessaria. Fino a quell'ora poni la tua fiducia in Dio. Qui i fanciulli si diedero a gridare che veniva il signor Haley e presto un insolente calcio fece aprire la porta. Haley comparve sul limitare. Egli era di pessimo umore per aver passato male la notte e per non potersi dar pace che non gli fosse riuscito di raggiungere la sua preda. Su, andiamo, negro, disse egli. Sei pronto? Il vostro servo, signora, soggiunse cavandosi il cappello quando scorse la signora Shelby. La zia Clo serrò la cassa, la legò e rialzandosi gettò un fiero sguardo sul mercante. Le lacrime subitamente si erano mutate nei suoi occhi in lampi d'ira. Tom si alzò placidamente per seguire il suo nuovo padrone e si caricò sopra le spalle la sua grave cassa. La moglie di lui prese in braccio la bimba. Per accompagnarlo fino alla vettura, gli altri fanciulli venivano dietro piangendo. La signora Shelby, appressatasi al mercante, si fermò a parlare vivamente con lui e in questo mentre tutta la famiglia procedette innanzi verso la carrozza, già bella e pronta vicino alla porta. Tutti gli schiavi del luogo, giovani e vecchi, si erano quivi radunati per dare l'ultimo addio all'antico loro compagno. Tom era sempre stato stimato da essi, non solamente come lo schiavo di fiducia del signor Shelby, ma anche come una guida cristiana. E la sua partenza eccitava in tutti, e specialmente nelle donne, una gran simpatia e un cordoglio sincero. Brava Clo, avete più coraggio di noi, disse uno di loro, che aveva versato copiose lacrime nel veder la cupa calma che Clo serbava nel tenersi ritta presso la carrozza. Ho esaurito la fonte delle mie lacrime, disse ella, guardando con aria truce il mercante che si avvicinava. Io in tutti i casi non ho voglia di piangere alla presenza di quel vecchio demonio. Su via, montate, disse Haley a Tom, passando tra la folla dei neri che lo guardavano con mal rattenuto disprezzo. Tom salì nella carrozza e Haley tratte dal cassettino sotto il sedile due grosse catene. Si pose a fargliele girare intorno alla nocca dei piedi. Un bisbiglio di sordi fremiti di indignazione corse tutto il cerchio degli astanti e la signora Shelby, a voce alta dalla veranda, disse: Signor Haley, vi accerto io che questa è una precauzione inutilissima. Non so niente, mia signora. Ho perduto di fresco 500 dollari, non voglio espormi al rischio di perderne altri. Potevamo bene aspettarcelo, disse la zia Clo con sdegno, mentre i due fanciulli, che pareva avessero a un tratto compreso la sorte del loro padre, si aggrappavano alla veste della mamma piangendo e mandando acute strida. Mi dispiace molto, disse Tom, che il padroncino Giorgio sia oggi assente. Giorgio era andato a passare 2 o 3 giorni presso un amico in una vicina piantagione. Essendo egli partito all'alba del giorno stesso in cui si era divulgata la sventura di Tom, non ne aveva avuto il minimo sentore. «Fate i miei saluti al padroncino Giorgio», disse Tom con viva commozione. Hayley frustò il cavallo e Tom, col quieto e doloroso sguardo rivolto alla sua antica abitazione, fu tratto lungi da essa. Il signor Shelby non era a casa quel giorno. Per sola necessità ineluttabile gli aveva dovuto vendere Tom, volendo liberarsi dagli artigli di un uomo che gli temeva, e il suo primo sentimento dopo la conclusione del contratto era stato quello di un gran sollievo, ma le lagnanze della moglie sua avevano destato in lui un rimorso che era cresciuto nel vedere il disinteresse di Tom. Invano egli ridiceva a se stesso che era nel proprio diritto, che ognuno a suo posto avrebbe fatto la stessa cosa, e molti, anche senza la scusa della necessità, non gli riusciva di far tacere quell'interna voce, e solo per schermirsi dall'ingrata vista della partenza aveva scelto quel momento per una gita di affari, sperando che al suo ritorno sarebbe finita ogni cosa. Il carro traeva i due viaggiatori sulla strada polverosa e Tom vide fuggire dietro a sé ad uno tutti i luoghi che aveva tante volte frequentati. In breve, passati gli estremi confini della piantagione, si trovarono sulla strada maestra. Dopo la corsa di un miglio circa, Hayley si fermò dinanzi alla bottega di un fabbro e vi entrò per far eseguire alcuni cambiamenti alle manette che aveva portate seco. «Sono un po' troppo piccole per questo maccione», disse il fabbro accennando a Tom, poi guardandolo soggiunse: «Signore Dio, non è questo il Tom di Shelby? Non lo avrà venduto, spero!» «Ma sì, sì, venduto», rispose Hayley. «Ma come può essere una tal cosa? Oh, chi avrebbe mai potuto immaginarlo? Però vi accerto che non c'è bisogno di incatenarlo a questo modo. Egli è il più fedele e il più onesto servo che io conosca». «Sarà vero», disse Hayley, «ma appunto con i nostri bravi uomini bisogna stare sull'avviso. Gli stupidi, i neghittosi, gli ubriaconi sono mercé di cui si può fare a palla senza che se ne adontino. Anzi, il più delle volte ci hanno gusto, ma questi neri di prima qualità abborrono i cambiamenti come il peccato. Non c'è che la catena per assicurarsi di loro». «Ma», disse il fabbro cercando lo strumento necessario, «le vostre piantagioni di laggiù non sono veramente il paese dove i neri siano contenti di anelare. Ci lasciano presto la pelle, non è vero?» «Sì, non vi reggono molto a lungo», disse Hayley, «lo confesso. Sia il clima o altro ne muoiono sempre abbastanza da mantenere vivo il commercio. Però è ben triste vedere un uomo onorato e fedele servo quale Tom andarsene laggiù per lasciar le ossa nelle vostre piantagioni di zucchero. Non temete per lui, ho promesso di trattarlo bene, lo farò entrare a servizio in qualche buona casa e se egli resiste al clima e alla febbre sarà tanto felice quanto un nero può desiderare». «Suppongo che gli lasci qui la moglie e i figli». «Sì, ma là ne prenderà un'altra, signore Dio, ci sono donne abbastanza dappertutto». Mentre venivano fatti questi discorsi, Tom era rimasto seduto tristemente fuori della bottega. D'improvviso egli sente il rapido e precipitoso galoppare di un cavallo e prima che possa riaversi dalla sorpresa, il suo giovane padrone si lancia nella carrozza, gli getta affannosamente le braccia al collo e piangendo e nel tempo stesso minacciando, esclama con una specie di ruggito che a stento trattiene: «È una vera infamia! Si dica ciò che si vuole, è una sconcia, abominevole indegnità! Se io fossi un uomo fatto non si ardirebbe trattarvi a questo modo, no, non si ardirebbe!» «Oh, padroncino Giorgio», disse Tom, «quanto bene mi fa la vostra presenza. Mi doleva troppo di partire senza rivedervi. Mi fate più bene di quello che potete immaginarvi». E qui Tom fece un movimento e lo sguardo di Giorgio venne a cadere sopra i suoi ferri. «Che vergogna!» gridò egli sollevando le mani. «Bisogna che io lo ammazzi quel vecchio imbecille! Sì, bisogna che io lo ammazzi! No, no, padron Giorgio, non lo farete. E vi prego di non parlare così ad alta voce, sarà peggio per me se lo irritate». «Bene, tacerò per voi. Pensate un poco, se non è una vera vergogna. Nessuno ha cercato di me stamani, nessuno mi ha fatto dire una parola. E se io non ne sentivo l'annunzio da Tom Lincoln, ignorerei tutto anche adesso. Ho messo a soqquadro tutta la casa». «Avete fatto male, padroncino Giorgio». «Ma non potevo fare altrimenti, vi dico che è una vera infamia. Ora guardate, zio Tom. soggiunse con accento misterioso e voltando il dorso alla bottega. Vi ho portato il mio dollaro. Oh, non posso prenderlo, padron Giorgio, per nulla al mondo, disse Tom vivamente commosso. Io però voglio che lo prendiate. Sentite un poco, ho detto alla zia Chloe che era mia intenzione di portarvelo ed ella mi ha consigliato di forarlo e di passarvi un nastrino perché possiate mettervelo al collo e tenerlo celato, se no quel sozzo furfante ve lo prenderebbe. Vi dico, Tom, che bisogna che io gliela canti come si merita costui, sarà un sollievo per me. No, no, padron Giorgio, non lo fate, ciò non recherebbe alcun vantaggio a me. Ebbene, mi freno per amor vostro, disse Giorgio, appendendo il dollaro al collo di Tom. Così. Adesso abbottonatevi ben bene il corpetto e conservatelo, e ogni volta che lo vedrete rammentate che io verrò a riscattarvi un giorno. Ne abbiamo parlato io e la zia Chloe, le ho detto che non abbia timore di nulla, me ne assumo io l'impegno e tormenterò la vita a mio padre finché non venga a ricomprarvi. Oh, padron Giorgio, non parlate in tal modo di vostro padre. Ah, zio Tom, io non intendo davvero di dire una cosa cattiva. Ora, padroncino Giorgio, disse Tom, bisogna che mi promettiate di essere un buon figliuolo. Rammentate che siete la delizia di molti cuori. Obbedite sempre a vostra madre. Non seguite l'esempio di quei giovani folli che si credono troppo saggi per dover ascoltare i consigli materni. Date retta a me, padroncino Giorgio. Vi sono parecchie cose buone che Dio dà due volte, ma una madre non la dà che una volta sola. Voi non trovereste mai un'altra donna simile. Se campaste 100 anni, perciò amatela, rispettatela. E crescete per esserle di consolazione, non è vero, mio ottimo figliuolo, che così farete? Sì, rispose Giorgio con tutta serietà. E siate cauto nelle vostre parole. I giovinetti della vostra età sono testardi qualche volta, è nella loro indole, ma quando sono ben educati come voi, non si lasciano sfuggire una parola che non sia rispettosa verso i loro genitori. Non ve ne avete mica per male, padroncino Giorgio? No, davvero, zio Tom, voi mi avete dato sempre ottimi consigli. E vedete, io sono più vecchio di voi, disse Tom, accarezzando con la sua grossa e ruvida mano la bella testa ricciuta del giovinetto e parlando con voce insinuante. Io vedo tutto ciò che potete divenire. Oh, padron Giorgio, voi avete tutto, educazione, privilegi, sapete leggere e scrivere, voi diverrete un uomo di alto merito, istruito e buono. E tutti i vostri servi, vostro padre e vostra madre, ne saranno superbi. Siate buon padrone come vostro padre, buon cristiano come vostra madre. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua gioventù. Padroncino Giorgio. Io voglio essere buono, veramente, zio Tom, ve lo prometto. Voglio essere un uomo di prim'ordine e perciò non vi perdete d'animo. Vi dico io che tornerete alla piantagione. Come ho detto alla zia Clo stamani, quando io sarò un uomo rifabbricherò la vostra casa e voi avrete un appartamento e un bel salotto col tappeto in terra. Sì, avrete ancora un po' di felicità. Hayley comparve sulla porta del fabbro con le manette in pugno. Ascoltate, signore, disse Giorgio con aria di gran superiorità. Mio padre e mia madre sapranno come voi trattate lo zio Tom. I miei complimenti, giovanotto, rispose il mercante. Dovreste vergognarvi di consumare la vostra vita a vendere uomini e donne e a incatenarli come bestie feroci. Oh, fino a che le signorie vostre compreranno uomini e donne, io non sarò più colpevole di loro, disse Hayley. Io che ad essi li vendo. Tra comprare e vendere non c'è gran diversità. Io non farò mai né l'una né l'altra cosa quando sarò un uomo, disse Giorgio. Sento vergogna di essere un kentuchese, io che prima ne andavo superbo. Così dicendo, Giorgio balzò in sella e gettò intorno a sé uno sguardo indignato, come se aspettasse di vedere tutto il Kentucky commuoversi alla sua opinione. Orbene, addio, caro Tom, fatevi animo. Addio, padron Giorgio, rispose Tom, fissando su lui uno sguardo di tenerezza e di ammirazione. Iddio onnipotente vi benedica. Il figlio del signor Shelby si allontanò e Tom guardava ancora da quel lato fino a che udì lo strepito del cavallo da lungi, estrema vista ed estremo suono della casa dove erano i suoi affetti. Ma gli sembrava che il suo cuore fosse meno freddo e meno derelitto da che le mani del giovinetto gli avevano affidato il prezioso dollaro. Tom vi pose la sua mano sopra e se lo strinse fortemente al cuore. «Senti qua, Tom», disse Haley, appressandosi alla carrozza e gettandovi dentro le manette. «Voglio cominciare bene con te, come fo sempre coi miei negri. Ti dico una volta per sempre, se ti porti bene con me, io ti tratterò bene, perché sono tutt'altro che duro coi miei neri. Or dunque, credimi, pensa a darti pace e non mi fare qualche brutto tiro. Del resto, io conosco le vostre gherminelle, e il tentarle con me è come fare un buco nell'acqua. Se i miei neri stanno tranquilli, né si provano a fuggire, sono contenti di me. Se no, peggio per loro». Tom accertò Haley che non aveva la minima intenzione di fuggire, e infatti l'esortazione poteva sembrare superflua a un uomo che aveva due grosse catene ai piedi. Ma Haley era avvezzo a cominciare le sue relazioni con ciascuno della sua mandria, tenendogli un predicotto di questo genere, il che gli pareva abilmente calcolato per ispirare l'allegria e la fiducia e prevenire la necessità di ogni disgustosa scena. Qui prenderemo per un momento commiato da Tom per tenere dietro agli altri personaggi del nostro racconto. 11. Manifestazioni della proprietà contro il proprietario. Sul finire di una giornata nebbiosa, un viaggiatore smontava da cavallo alla porta della piccola locanda del villaggio di N, nel Kentucky. Una comitiva oltremodo svariata era raccolta nella sala d'ingresso. Il cattivo tempo aveva tratto l'agra numero d'ospiti e il luogo presentava la solita scena di tali radunanze. Kentuchesi d'alta statura, muscolosi e tarchiati, in abito da caccia, avvezzi a scorrere, vagando liberamente il loro vasto territorio con quel fare sbadato e leggero proprio della loro razza. Fucili, borsette da polvere, da pallini, carniere, cani da caccia e piccoli neri, il tutto messo alla rinfusa in un canto. Tali erano i tratti principali del quadro. Davanti al fuoco era seduto un gentleman con le gambe lunghe che si tentennava sulla seggiola col cappello in testa e appoggiava con atto superbo i tacchi dei suoi stivali inzaccherati sul cammino. Positura che piace ai frequentatori delle taverne dell'Ovest come quella più favorevole alle riflessioni. Dietro il banco stavasene l'oste, il quale, come la maggior parte dei suoi compaesani, era alto di statura, di buona indole, di forme non molto belle, con una gran capigliatura e un enorme cappello in testa. Chi avesse percorso la sala con lo sguardo si sarebbe accorto che ciascuno di quegli uomini portava in capo un emblema del suo carattere ed era il modo di mettere il cappello. Forse un cappello di feltro o di foglie di palma, di castoro o di seta, il modo in cui era messo sulla testa dava la nota caratteristica di ciascun individuo. Alcuni lo portavano libertinamente inclinato sull'orecchio ed erano i buontemponi, i gaudenti, nemici delle cerimonie. Altri lo avevano calcato fin sul naso ed erano i caratteri fermi, arditi, uomini insomma che portavano il cappello perché volevano portarlo e portarlo a modo loro. Ve ne erano vari che lo portavano all'indietro ed erano uomini svegli e accorti che volevano veder chiaro da lungi, mentre gli uomini spensierati che poco si curavano del cappello se lo mettevano in capo come andava, andava. Parecchi neri dalle ampie brache, i cui movimenti non erano impacciati da altre vesti, facevano un continuo andare e venire nella sala senza che tanta alacrità producesse alcun notevole risultato. Ad ogni modo, essa dimostrava un gran desiderio di mettere tutto sottosopra nel mondo a vantaggio del padrone e dei suoi ospiti. Aggiungasi a cotesto quadro un fuoco allegro e scoppiettante in un vastissimo camino, una porta e varie finestre, tutte spalancate, delle quali un vento umido e freddo faceva svolazzare le cortine, e avrete un'idea completa della gaiezza di una locanda del Kentucky. Il kentuchese dei tempi nostri è una prova vivente della trasmissione degli istinti e delle singolarità caratteristiche di una razza. I padri suoi erano grandi cacciatori che vivevano nei boschi, dormivano sotto la libera volta del cielo e non avevano altra lampada che le stelle, e il loro discendente fino ad oggidì opera ancora come se la sua casa fosse un campo. Ha sempre il cappello in testa, si getta e si sdraia sulla prima suppellettile che trova e mette i calcagni sulla spalliera delle seggiole o sul caminetto, appunto come i suoi padri si gettavano sull'erba e appoggiavano i talloni ai tronchi d'alberi. Bisogna, inverno o estate, che tutte le finestre e gli usci siano spalancati per dare aria sufficiente ai suoi larghi polmoni. Con una incurante bonomia e senza ombra di superbia, egli dà del forestiero a chiunque gli capita fra i piedi. Egli è finalmente il più franco, il più sincero, il più gioviale degli uomini. In questa adunanza di gente buona e allegra si introdusse il nostro viaggiatore. Era questi un uomo di una certa età, basso di statura, ben vestito, col volto gaio e rotondo, in tutta la persona aveva qualche cosa di simpatico e di originale. Egli sembrava molto preoccupato per la sua valigia e per il suo ombrello, che portò con le sue proprie mani, dopo aver pertinacemente resistito a tutte le offerte che i vari servi gli facevano di togliergli quell'impaccio. Volse intorno alla sala uno sguardo inquieto e, raccogliendosi con le sue robe nell'angolo più caldo, posò la valigia e l'ombrello sotto la sua sedia. Si sedette e si mise a guardare con una certa aria di apprensione l'alto individuo i cui stivali pareva fossero gli alari del camino e che spurgava a destra e a sinistra con tale energia da inquietare un uomo di nervi delicati. «Dite un po', forestiero, state bene?» domandò il signore di cui sopra abbiamo fatto la descrizione, lanciando vigorosamente, con saluto cortese, il sugo del tabacco masticato. «Non c'è male», rispose l'ometto arretrandosi un poco sconcertato dall'onore di cui era minacciato. «E che nuove abbiamo?» riprese il suo interlocutore, estraendo di tasca un rotoletto di tabacco e un lungo coltello. «Nessuna che io sappia. Masticate, voi?» disse il primo, offrendo al nuovo venuto un pezzo di tabacco in modo veramente fraterno. «Grazie, no, non è cosa che mi si confaccia», rispose questi ritraendosi un poco. «No, eh?» fece l'altro con aria indifferente, mettendosi in bocca il tabacco per averne sempre una buona provvisione a beneficio della radunanza. E vedendo che il vecchietto aveva una scossa ogni volta che gli sputava, il brav'uomo si volse tranquillamente da un altro lato e si diede a fulminare dei suoi tiri uno degli alari, con tale abilità guerresca che sarebbe stata sufficiente a espugnare una città. «Che cosa c'è?» disse il vecchio signore, vedendo che una parte della società era si raggruppata davanti a un cartello. «Oh, i connotati di un nero», gli fu risposto. Il signor Wilson, tale era il nome di quell'omiciattolo, si rizzò in piedi e, dopo avere con grande attenzione messo in luogo sicuro la valigia e l'ombrello, trasse dal taschino i suoi occhiali e, inforcatili sul naso, lesse ciò che segue. È fuggito dalla casa del sottoscritto il mulatto per nome Giorgio. Il detto Giorgio è un giovane alto 6 piedi, la sua tinta è molto chiara. Ha capelli biondi e ricciuti, egli è intelligentissimo, parla bene, sa leggere e scrivere, probabilmente si farà passare per bianco. Il suo dorso e le sue spalle hanno profonde cicatrici e nella sua mano destra è marchiato con la lettera H. Darò $400 a chi me lo riconduca vivo e ugual somma a chi mi dia prove soddisfacenti che egli è stato ucciso». Il vecchio gentleman lesse questo avviso da cima a fondo con voce bassa, come se avesse voluto impararlo a memoria. L'uomo dalle lunghe gambe, di cui esponemmo le non troppo eleganti abitudini, si alzò anch'egli in piedi quanto era alto e, avvicinatesi all'avviso, lo coperse di una vera scarica di sugo di tabacco. «Ecco la mia opinione su ciò», disse egli con placidezza e tornò a sedersi. «Ehi, ehi, amico, che fate mai?» disse l'oste. «Farei lo stesso inviso all'autore di questo foglio, se egli fosse qua», disse il lungo individuo e tranquillamente ricominciò a tagliare del tabacco. «Chiunque possiede un giovane come questo e non lo tratta meglio è degno di perderlo. Tali avvisi sono una vergogna per il Kentucky. Ecco quello che io penso, se c'è qualcuno che ha voglia di saperlo». «Va bene», disse l'oste registrando alcunché nel suo libro. «Io pure ho una buona frotta di neri», soggiunse l'uomo alto, rinnovando l'assalto contro un alare del camino, «e dico loro: figliuoli miei, potete fuggirvene e andare dove meglio vi aggrada, non abbiate paura che vi corra dietro. Ecco il modo con cui io li tengo. Fate che sappiano d'essere liberi di fuggire in ogni tempo, e ciò ne toglie loro il desiderio. Inoltre, le loro lettere d'emancipazione sono fatte e registrate per il caso in cui la mia barca venisse a capovolgersi uno di questi giorni, ed essi ben lo sanno. Posso accertarvi, amico, che non c'è alcuno in questi parti in cui i cui neri lavorino più dei miei. 20 volte li spedii a Cincinnati con puledri che valevano più di $500 e si tornarono dritti come frecce portandomi il denaro. Trattateli da cani e da cani saranno le loro azioni. Trattateli da uomini e da uomini saranno le loro opere. E l'onesto negoziante di cavalli, che tale era la sua professione, nel calore del ragionamento avvalorò quell'esposizione di principi morali con un vero getto di fuochi artificiali contro il camino. Io penso, amico, che abbiate ragione, disse signor Wilson. Il giovane di cui abbiamo or ora letto i connotati è persona di merito, senza alcun dubbio. Lavorò 6 anni nella mia fabbrica ed era il più bravo operaio che avessi, è un uomo ingegnosissimo. Egli inventò una macchina da purgare la canapa che è una meraviglia. Si adopera in molte fabbriche, il padrone di lui ne ha il brevetto. E di certo, disse l'uomo alto, egli ha il brevetto in tasca e guadagni e marca l'inventore con un ferro rovente. Se io ne avessi l'occasione vorrei marcar lui, ve lo accerto, in modo che se ne ricordasse per un pezzo. Questi vostri giovani saccenti sono sempre indocili e restii, disse un uomo d'aspetto grossolano dall'altra parte della sala. Ecco perché sono marchiati e coperti di cicatrici. Se si portassero bene, non ne avrebbero. Vale a dire, soggiunse l'individuo dalle gambe lunghe, che Dio li fece uomini e che è una dura faccenda il mutarli in bestie. Ma, in fin dei conti, questi neri scelti non sono di un grand'utile ai loro padroni. Riprese l'altro, così ben trincerato nella sua stupidezza goffa e triviale da non sentire il disprezzo del suo interlocutore. A che servono i loro talenti e tutte queste belle cose se non potete usarne voi stessi? Costoro se ne servono solo per ingannarvi. Io avevo uno o due di questi neri e mi sono affrettato a venderli per il sud perché sapevo bene che presto o tardi li avrei perduti se non mi fossi appigliato a questo partito. Meglio sarebbe stato ucciderli. Le loro anime sarebbero almeno rimaste libere. Qui la conversazione fu interrotta dall'arrivo di un elegante calessino tirato da un cavallo. Era dentro un uomo di aspetto signorile e lo guidava un servo di colore. Tutta la comitiva si diede a osservare quel forestiero con quell'attenzione che suol destare, in un giorno piovoso, il sopraggiungere di un nuovo ospite in mezzo a una frotta di oziosi. Egli era assai alto, con tinta bruna da spagnolo, aveva gli occhi grandi, neri, molto espressivi e la capigliatura abbondante e a ricci di un bel nero lucido. Il suo naso aquilino, la bocca piccola e i contorni leggiadri delle sue forme impressero nell'animo di tutti gli astanti l'idea che fosse un uomo di merito. Quegli entrò con modi franchi in mezzo alla comitiva e con un gesto indicò al suo servo il luogo dove voleva deposta la sua valigia. Salutò gli astanti. E inoltratosi al banco dell'oste, si fece iscrivere sotto il nome di Enrico Butler d'Oakland, contea di Shelby. Voltosi poi con aria di indifferenza, si avvicinò al cartello di cui parlammo sopra e lo percorse con lo sguardo. Jim, disse egli al suo servo, mi pare che abbiamo incontrato colaggiù, presso Vernon, un giovane rassomigliante a questo. Sì, padrone, disse Jim, ma non aveva marca sulla mano, mi pare. Non ci ho badato, soggiunse il forestiero con uno sbadiglio di noncuranza. Indi, appressatosi all'oste, lo pregò di farlo condurre a una camera particolare poiché aveva da scrivere. Il locandiere usava modi gentilissimi e ossequiosi a un distaccamento di 6 o 7 neri fra giovani e vecchi, maschi e femmine, piccoli e grandi. Si pose subito in moto, ronzando come uno sciame di pecchie, spingendosi, urtandosi, pestandosi l'un l'altro i piedi nel loro zelo di servire il forestiero, mentre egli stesso, seduto nel mezzo della sala, attaccava discorso con colui che gli era vicino. Da che il nuovo ospite era entrato in sala, il fabbricante Wilson non ne aveva distolto lo sguardo, spinto da un'ansiosa e inquieta curiosità. Gli sembrava di essersi già incontrato con lui, benché non si ricordasse dove. Ogni volta che lo straniero parlava o faceva una mossa o sorrideva, egli si sentiva dare una scossa e fissava su lui gli occhi per distoglierli appena ne incontrava lo sguardo del tutto indifferente. Da ultimo, parve che un raggio gli illuminasse la mente perché si pose a considerare lo straniero con un'espressione di stupore e di spavento. Questi allora si alzò e, accostatosi a lui, disse, come se lo avesse ravvisato a un tratto e porgendogli la mano: Il signor Wilson, mi pare. Vi chiedo perdono di non avervi riconosciuto prima. Vedo che vi rammentate di me, Butler d'Oakland, contea di Shelby. Voi. Sì, signore, disse Wilson, come chi parla in sogno. Nell'istante medesimo, un nero entrò annunziando che la camera del signore era pronta. Jim, bada alle valigie, disse il gentleman con una certa trascuratezza. Poi, rivoltosi al signor Wilson, soggiunse: Io dovrei, signore, aver con voi, se non vi incresce, un breve colloquio nella mia camera circa un affare. Il signor Wilson lo seguì come un sonnambulo ed entrambi entrarono in una camera dove scoppiettava un bel fuoco testé acceso e dove ancora si affaccendavano alcuni neri, dando l'ultima mano per mettere in ordine le cose. Finita ogni faccenda e ritiratisi i servi, il giovane serrò pian piano l'uscio, si pose la chiave in tasca e, incrociando le braccia al petto, guardò in volto il signor Wilson. Giorgio, disse il signor Wilson. Sì, Giorgio stesso, rispose il giovane. Oh, non me lo sarei mai immaginato. Vi pare che io sia ben travestito, disse il giovane sorridendo. Un po' di scorza di noce mutò la mia pelle giallognola in una gentile pelle brunetta e mi tinsi di nero i capelli, perciò, come vedete, io non ho la minima rassomiglianza col ritratto che di me si fa nell'avviso. Oh, Giorgio, è troppo pericoloso il gioco che voi state giocando. Io non vi avrei consigliato un tal passo. Ebbene, io solo ne porterò tutta la responsabilità, disse Giorgio, sorridendo con la medesima calma. Notiamo qui brevemente che Giorgio era per parte di suo padre di razza bianca. La madre sua era stata una di quelle creature infelici destinate dalla loro bellezza a una schiavitù peggiore di ogni altra nella casa a cui appartengono. Dalla famiglia paterna, una delle più orgogliose del Kentucky, egli aveva ereditato leggiadre sembianze europee, non meno che un'indole altera e indomabile. Da sua madre aveva ricevuto solamente una leggera tinta di mulatto, ampiamente ricompensata dallo splendore di grandi occhi neri. Un piccolo cambiamento nel colore della sua carnagione e dei capelli era stato bastante per trasformarlo in un viso da spagnolo, e siccome la grazia dei movimenti e la gentilezza dei modi erano in lui perfettamente naturali, egli non aveva da durar la minima fatica per sostenere arditamente la parte che si era assunta, quella di un gentleman che viaggia con un servo.